E beh, tutti morti. I cudi e chi? Eglia, ti ho sentito. E cosa hai sentito? Buonasera. Saluto. Sempre quello che fischia c'è. La caro brucia. La caro brucia, cosa gli va? Cosa vuoi fare? Quindi a brucia e a fare altre cose, altri rumori. Molì. Ce li uso, oh iaia. Cara cara. Ora, già sto uscendo, là. È troppo fermi, sono questi microfoni. Usali. Uso, ci vuoi andare tutto? Tutto, vendo tutto. Tra quattro ce ne sono andati, mi. Ma ne vuoi, radio di Cefini? No, infatti, avanti c'è cosa ti dico. Vendo tutto. Tutto venduto. Ma gli ha trovato lo cazzo, vai qua. No. Non mi buono per lo cazzo. No, non ne ho fretta, fra. Ancora già ne ho da fare. Mancano alcune cose. E poi a tempo bello. No. Così è. Ma sono le voci tu. Tu non mettendo un ventilatore che mi si è truccato, mi si è che. E non è il motore. Recupera il motore e quello serve sempre. Allora ti compresi invece di stare in chi c'è un BMR, ma chi non entra nei 27 a fare vedere. Per carità, io sono poco appassionato di questa cagata che hanno fatto. Vabbè, ognuno dice di fare quello che vuole, ma... Ah, senza avere dubbio, però io avrei preferito stare qua, tenere alta la bandiera, anziché stare in Chivia, a ciucucciù, bah. È un bel Natalì, che si dice? E cosa vuoi che si dica, boh? Non ne so neanche io poco ci sto qua, non tanto bene a culo, mi tocca si va ad uno per il QRM da quel cazzo. E vabbè, già lo superiamo noi il QRM, sarà il suo problema. Bene, mi stai ascoltando, fra, non sono al massimo, c'ho il Mickey Gain a metà, bene, mi stai ascoltando. Caffa, 9 modulati, 9 modulati, vedi 8, 9 modulati. Vatti. Ehi, c'ho come 10 watt, 10, 12, 13, 14, 15 watt. E sto usando 140, non stavo usando... Infatti è andato giù, c'ho dato un microfono. Non so, ma c'è tempo che devo sfruttare un po' di spray. I microfoni se non li usi è un casino. Va bene. Così è. Non lo sai come sono fatti questi microfoni. Non lo so. Ne avevo uno là, l'altro io prima ce l'avevo, sempre da una parte ce l'avevo, allora da usarlo, ma questo è inciudato. Da quando ho cominciato a usarlo l'ho messo al PMR, l'ho agganciato e adesso è normale come questo. Sì, ma c'è il tattino di sotto, quello in out che ha sfruttato un po' di spray e basta. E poi riprende bene a funzionare perché si interrompe il contatto di amplificazione. 60 è così. Sì, ne aggiungo 4 io. Però li ho già tutti messi dentro la scatola. Non ci ballate poco i gocci, ma è vero, fra, mi hanno venduto un bel. I due sono in partenza, penso, a fine settimana o la prossima settimana. È venuto solo un HF e anche questo è in vendita. e su subito mi ho messo a Massimiliano 140, tengo solo il 440 al batte un HF blu, dici no, ha giurato la barracca, no? Oh. Cosa ti stai tenendo? Nulla, un HF per precauzione, sicuramente il 440 o il 430, capito? Uno o l'altro, adesso decido, basta, no, la parte VU, quella tolgo tutto. Ho detto, fratto, aspettano il tempo buono perché devono venire delle persone a prendersi anche le antenne, capito? Devo staccare tutto, mettere dentro le scatole e si portano via tutto, antenne, rotore, tutto. E poi ne toglierò la manta, vado qua, però di là, nella casa nuova, prima faccio un sondaggio, se ne vale la pena la piazza antenna 27, se non ne vale la pena la gioia ai fascia nuda va a pulire l'antenna e la bue fa vedere gullaini o col muro. Sì, vabbè, una della 27 almeno, tanto per chiacchierare qualcuno quando si capita, già va bene, qualcuno è di HF e basta, vorrebbe. Qualcuno di HF, no, HF me lo tengo, uno non si sa mai, ma ti accavo di punire che cosa, ma non ne faccio più, no? Non mi interessa, non mi interessa, cosa, assolutamente, mi terrò l'altra radio, anche quella nuova che ho comprato, sto vendendo, però sono già venuti a vederla un paio di persone, non di qua, non di Sassari. Sono molto interessati, però stanno cercando qualcosa di meno costoso, ma io non la posso regalare. Capito? E basta. Per il resto è noia. Che peso avrà? È noia. Diciamo che regalarla no, se l'hai pagata il suo, se l'hai pagata è un casino, regalata. Quella. Ma le male che vada ci puoi perdere, ora ci puoi perdere, ci porta io, non di più. Sì, ma infatti, però, regalarla no, capito? Poi ho tutte le scatole, c'ho anche la scatola del 440, va, te lo godo, ma però sai, te massarla, sto iniziando a liberarla un po', a portare via roba che non serve, c'erano mobili, ce li ha presi uno per campagna. Divanetto nuovo, quello lo tengo, però l'ho già portato nell'altra casa. E devi trovare la scatola del coso, la scatola del 440, figura di due. Infatti ne ho scesa, appena lo stacco questo, tengo, adesso sto tenendo il 140 che è quello più piccolino, ma gli altri li ho già messi tutti a parte. E il DAC non so dove mettere, ne ho ragione. Senza chi ci viso tra l'armadio di baracchini, mamma mia come sto. Troppo, la cosa è fatta in anni, la musa su regia, e la vini, è tutto lì. Esce bravo, dove è il rete armati, accordatori, rosmetri, wattmetri, microfoni, baracchini, c'è super star 3009 che se ne rivende dentro armati, il 48, il DAC che fortunatamente qua però lo devo togliere, però questo è un barragione, non so neanche dove metto, non c'ho scatola, non so niente, cosa va giù? La linea di craft, la linea di madre di Dio, hai detto bene, accumulato negli anni, però poi alla fine cosa ne vai? Non so, se non sai niente, purtroppo piace quando ce l'hai la cosa, e quella tu mi era di quella voglio usare, a provare, a fare, ed è bello. Però, per il ritorno anche, infatti io avevo intenzione di prenderla un'altra, però poi addirittura è meno quasi addosso. Spiaggio una vetta, mi dai indulizia e tu, e io si può arrivare a chi mi faccio. No, no, fra, se non sia livello amatoriale che la usi, tipo quella che sei tu, che c'ho io, non te ne fa niente, insomma, una radio del genere, da, lascia perdere il prezzo, fa cosa, fa vedere in PMR, no, fra, lascia perdere, no. Come ti sto dicendo, io sono propenso anche a dare il 4,40 e tenermi il 4,30 che è molto più meccanico, fra me, dà meno difetti, meno problemi, capito? Perché sono radio che per qualche mese devo rimanere ferme e quindi alla fine i risultati poi arrivano, si viaggio di buoni altri di una sobra, non penso blu più, rimane nei gusci come ti so, perché non riparo più niente, non faccio più niente. Mi c'ho l'820H a riparazione, ma te la De Lucca, quella che ti avevo detto a te, perché volevo farla sistemare qua a Sassari, però purtroppo non c'è nessuno, allora l'ho mandata a De Lucca, e figurati che ancora non ha controllato nulla. Appena la controlla quella lì, vediamo cos'è, ci butto due lire sopra quella e adesso parte tutto, tengo solo quella lì al limite, giusto per ascoltare o per salutare qualche amico, se metto qualche antenna mi banda, se no già rimane dentro l'armadio, buruvisce. Ecco, e quella che ti voleva dare quella là, che era venuta con me, cosa ti ha detto? Niente, non l'ho capito. Ma quella sempre di banda base? Sì, quella voleva dare 200 euro. Sì, l'ho presa, quella l'ho mandata a riparare, a controllare l'ho mandata. Ah, te l'hai presa tu? Sì, l'ho presa io e l'ho mandata a controllare. L'ho mandata a controllare, no, era guidato vicino. Capito, mi recupero i soldi di quella nuova che ho comprato e mi tengo quella lì che l'ho pagata meno, no? Sì. Dipende Natalino. Io c'è stato uno stop. Ma io non mi chiamo né O né Frusciu, quindi anche devo rispondere. Io ho un nome, non mi chiamo né O né Frusciu. Ciao Natalino, ciao Fra, buonasera. Mi che c'è Luca sotto, là. Scusa, io non ti ho capito. C'è quel po' uomo di Luca sotto. Luca c'è sotto. Se lo vedo io, Leandro, non me l'ha fatta poco, ce l'ha portato. Luca sotto c'è, cosa sorso, Fra? Ah, tu sei chi frusci e Dio. Ma io non rispondo a lui. Io non rispondo perché c'è sempre uno che fischia e io non mi chiamo Bruscio, capito? È bello bello. Ah, così, c'hai anche il bip, ho visto, col fischio. Va bene, ciao Lu, buonasera, ben sentito. No, per sempre, non sei tu, no, che segnale è molto più alto. Mi ha dato Bruscio, li di avanti e non rispondi. Allora già io gioco di bocca e baraule, ti lo mando in Olamara e si arrangia. Vai Fra, lo senti a Luca del Monte, con l'antennino piccolino. No, negativo. Ma ti ascolto molto molto basso anche in radio, per quello che non ho capito. Vabbè, capiamo Natalino. Sì, anzi Natalino sta uscendo bene. Guarda quello. Rispetto a prima. Cosa? No, ancora no, Lu. Oh, quello ce ne metto in questo tempo. No. Non agio Brescia, Lu. Non agio sfratto io, no. Ancora ci sono cosettine da fare, stiamo facendo, piano piano. Era un mese che non entravo in radio. E poi devo... c'ho una ditta di traslochi, io grigiavi, dai, arrangetevi, portate tutto di là, io questa la chiudo a chiave perché questa me la sto smontando io piano piano, non ne ho fretta lui, ne ho poca voglia e un sacco di cose da fare, va giù. No. Ah, leggermente appena appena ma abbastanza comprensibile. Lu, un bel piano di massa a farle, si usi antenna con base magnetica, io ne ho una nella finestra, guarda, arrivo anche al Ghero. Ok, anche al Ghero arrivo. C'è un piano di massa, c'è una piastra in ferro da 20x20 e la base magnetica al centro. A posto. Piano di massa ci vuole per le basi magnetiche, sennò è un casino. Ma infatti io non ne ho il 58 sopra l'adatto. Dovrei avere qualcosa sui massarda di forse 213, qualcosa, grossa, roba grossa, ma non è che così non fa, capito? Va bene. Riprendi Nathalie. Dice che Franco ti sente basso del radio, come mai? Perché ce l'ho a 5, ce l'ho alto di turbo. Capito? L'ho messo volontariamente io così. Perché è cuoco, male Natalino. E tu sei paraculo. Ciao a tutti. Dai, sto pranzando. Oh, sono andato per un saluto. E ando mai. Ubriacone tragico. Pranza, pranza. Poi c'è Bolorici e quindi sei a posto. Va bene, va bene. Avanti Franco, riprendi. Ecco. Ciao, c'è Marco. E aspettate. Buon pranzo. Cazzo, buon pranzo. Hai detto di sera, ciu ciu. Vabbè, lui ormai è abituato così. Vabbè, ormai siamo abituati a sentire che lui va a pranzo a quest'ora, quindi non facciamo più abitudine, è questione di abitudine, ormai siamo abituati. Va bene, avanti Luca, riprendi. E se no che ratta pignara sarei? A lui non le piace la banana con la buccia, capito? Ne buccia prima, ricordi una lucidata, lo gornicione, è come sta a mangiare. C'è del gatto il pila, c'è diventato. Buono, è un pezzo di gomma, c'è bravo un botto insieme, ma non si muove più. Capito? Quanto fa zia Britella. Britella, ma se cava la gingoma, ma vuoi la munia sopra? Ma non vai oggi, la gente ce la sta lì, oh Britella! Ah così, prova! Ehi, da 9 vai a 9:10, a voglia, stai arrivando a Santiago 9 qua, amico, l'antennino, con l'intennino che c'hai. Ah, c'è di fronte, la parte verso i campi, la veloce, c'è di fronte. Anche qua 9. Luca, mettila sul frigorifero la base magnetica. Io la usavo sul frigorifero. Sì, ma io l'ho guardato, no, sono in cameretta io. Infatti ogni volta che attendia lo baracchino si attendia al frigorifero a Natalino. Hai zittendi, dimmi fra. È il capo, dai, un attimino che mi stanno chiamando, vedo che uscire un attimo, già dietro siamo a mezzoletto, là. Diciamo, ciao. Ciao Fra, ciao, alle prossime, stammi bene. Cosa hai detto Natalino? Sì, ciao Fra, nulla, cosa ho detto? Lo metto così sicuro io la magnifica, non è balla, gli aiutai. Certo che sì, però Luca sta arrivando bene qua. Sta arrivando molto bene, Santiago 9 quando attacca quasi 9:10, va bene. E adesso ti può attaccare, io non credo che ti fai questa cosa. Se vuoi vedere se prendi il cazzo. Ehi Natalino, oh come l'abbiamo rompito a me il cazzo, ve l'avevo detto una volta giuro e poi adios, perché avrei fatto quello che mi interessa. In regola certo in regola. O se fossi stato la dematore lì, mi dovevi avvertire tu. Avete cosa mi viene fatto? Poi avrei chiamato il vigile del fuoco con l'autoscala a farmi montare l'antenna. Vedi, io è perché sono così. Stavi ancora fatto e non hai stato mai un biastro di traliccio. Ah no, un traliccio con la biastra al centro di Rovicola, più buio. Ho credendo. Solo purtroppo tu c'hai solo la licenza per la 27, quindi non è che ti vuoi avventurare se goci, capito? Però anche lì ci sono i titoli, quindi non devono rompere scatto. Se io sono in regola, tu manda quello che vuoi e poi chi la dura la vince. Ehi, i nocchi da canto già giudizio di Maria Nicamandura e solo radio. Non si è visto nessuno, vuol dire che non è vero. io sono in regola qua, se vengono poco a poco li denuncio, per tutti. Uno mi era già la denuncia pronta anch'io, a cattiva in questa. Non si sa mai che ti ragioni altri, no, a me no, non c'è problema. Ma sei buono che fa un esposto, cazzo di denuncia. Ehi, ma vedrai che non ci viene nessuno, non ti preoccupare. Ma nulla no, a Caggiopà sul casino va a piazzare l'antenna, e già lo sai. E da voi in casa non entra nessuno e tu mi rompi il buco di cazzo di barro di guai, che la colpa è loro che hanno le antenne messe male. Ho avuto parole anche con quello del secondo piano, che mi stava facendo gli specchi, avevo fatto le scale nuove, lì il cazzo, ed è duro che ha capito e me ne l'ha trattato. Sono cazzata sopra, oh yeah. Non si sente più il tipo, non hai capito? Sei andato a cuccia. Lì abbiamo fatto un grande sacrificio, ma io te l'avevo detto quando ho fatto sopralluogo. Capito? Che l'antenna si poteva piazzare. Qualcuno te aveva detto che era un casino, qui e là, però io quando faccio le cose le vedo molto chiare. L'antenna è piazzata e va bene così. Peccato che il tubo non è molto lungo, però ti dà la possibilità di sentire e di farti sentire. Certo non con questo baracchino, ma se attacchi l'altro arrivi in tutti i lunghi. Capito? Già lo sai. Quindi l'antenna va bene come piazzata. Purtroppo c'hai questo handicap perché sembra irrisolvibile, che si poteva risolvere con la buona volontà entrambi, no? Visto che tu ti sei offerto per fare il lavoro, però mi sembra irrimovibile questa gente, e allora chi piglia ne chi su di bocca? Chi dà di chi mi rompe i miei capri, non so cosa fare. Prendo i due fanni da 6 metri che sono in campagna, a chi me la parla non so fare. E si pongo la manto faccio in questo prato di smettere di barro, è vero vostro, no? E siamo attenti, cambio le staffe. Le staffe le mettiamo a facciata, le mettiamo nuove, capito? Mettiamo le zanche nuove, staffe e via, autoscala però, non ci devo vagliare lo vacconi, capito? Autoscala e vedi baciamo Marchini. E mai gente che, per carità, guarda, proprio gente che vale meno di niente. E a me, Marco Condor, cosa ti stai straffogando? Sta attento a non affogare, chi c'ha bizza, io non mi dà mai niente di bizza. Ti ho sentito, ti mancano voci, vai alla venda in cabo, a chi pesci Don Ciccioni, sega giù da Cabaterra, però il mangiare non ti manca, la banana in bocca. L'unico frutto dell'amor è la banana e la banana. No, non ci ho capito, caduta a testa a terra, mamma è caduta. Siccome lei cammina male. È caduta il sopracciglio, c'era, ma era un taglietto di 2 centimetri. Infatti hanno messo una specie di, non hanno messo dei punti, hanno messo come dei punti liquidi, è una specie di adesivo biologico che ti salda ai bordi della ferita, l'attac mi hanno usato, si è tenuta una benda 6 giorni, poi l'ha tolta, era, non ci vedeva nemmeno, solo se ti avvicini molto lo vedi. Eia. Bene, buono il pollo, buono, oggi è uscito bene, cotto bene dentro, tutto bene. Eia. Com'era Natalì, l'hai vista quella, quel revolver che ti ho mandato? Quello è il modello, come si chiama? Modello 26, no, modello 36 Smith & Wesson, quella è bellina, piccola, c'ha 5 colpi ma è inox. Quelle se le aveva accesa delle sole, quello usava 44 magnum. Esagerato, va. Bene, adesso mangio l'insalata, pomodori, patate e uova, mamma mia. Stanotte tappeti. Uova sode naturalmente. Stanotte si intende dei droni, Dorra, ma se non vedo drone della stanotte. Io sono andato mico con Cesare, ma santa era bravo Cesare sparando Natalì, bravissimo. Usava quei revolver 44 mani, usava, anche non usò. E tu vedi a me ti fa bene. Oh, Beh, si è abituato. No, io stavo iniziando a essere bravino quando andavamo con Franco in via Pasqua. Poi avevamo mollato tutto perché ci avevamo comprato le moto, quindi tutto da parte e via. Ma io ce l'ho sempre, lo rinnovo sempre, capito? Io ce l'ho per uso sportivo, c'ho anche la pistola, già te l'ho fatta vedere, però è conservata. Non ci vado più, è un hobby che non mi interessa per il momento. Se mi viene già ci vado a fare qualcosa. Ma prima andavamo sempre con Franco. E vabbè, tutti gli hobby vengono e passano. E beh, Luca Cuocuomane, finito di fare casino in PMR, sì. Ora è PMR, sì. Non risponde, no? Oiaia, è PMR. In PMR? Vabbè. Cosa ti volevo dire? Io ero bravino quando c'avevo quell'altro, la pistola, però adesso che ho questa è una bella, questa qui non sbaglio, assolutamente. Beh, non sbagli no, io non mi ricordo neanche come si chiama la mia, ma l'avete detto a voi che vi ho mandato, per me era sempre una 9, però c'ha un nome particolare, come si chiama Marco la mia? Quella è la 98 Compact, c'ha la canna leggermente più corta. Ehi Claudio, no, stavo pigliando un'insalata, perché in PMR qualcuno c'è? Ehi, c'è la legge di tutti in PMR. Se non l'avessi io, quando non ci sono qua, metto ascolterei a loro, o nel 23, però ancora non sono trasferiti nel 23, c'è il Kimi. E vabbè, ognuno c'ha la sua passione, ognuno ha la sua passione, giustamente, e vabbè, ui ui ui, mi va di mai tutta vicina. Stavo facendo l'illuminazione per il vialetto, e quindi tutte le tracce con la zappa all'interno, naturalmente, poi va tutto corrugato e poi ogni corrugato va ai paletti con i lampioncini, ma va giù un dolore di china allucinante, la massa nera in varia, la terra, per me la campagna tutta cemento e la voluta. T'ha provato, uno quando non è abituato sale tutto a fare quelle tracce lì. C'è tutto dal corrugato e poi ci sono. Io lo stesso l'ho fatto lì in campagna, che l'avevo visto. Ah, ma la terra c'è morbida, sì, perché all'interno del giardino dove c'è il marciapiede, all'interno sotto che non si vede, capito? Però, mamma mia, cara, ma dolore di schiena. Ieri mi sono fermato, ieri, oggi, c'ho un mal di schiena, la settimana scorsa ero tutta la ghiera a vendere i gossi. Sa quelle cose da fare ci sono ancora, piano piano. Piano piano, dove il tempo è brutto, dovevano fare un pezzo di piazzale dall'altra parte, a calcestruzzo, quindi calcestruzzo non è potuto venire perché è stato bagnato. Ui ui ui, magari me l'ha fatto un vacca. Sì, magari l'ha fatto un vacca. Natalia, una scelta per la vecchiaia, ce l'ho per balle, stare in condominio, stare qui, stare là, intanto vale i soldi, poi alla fine ti rispiedi in altre cose. Ne approfitto per mia figlia, stiamo facendo una cosa carina, da poter stare tranquilli, sereni, non si può più stare. Adesso hanno assunto una ditta di giardinaggio, subito è aumentato il condominio, da 100 a 120, tra poco pago più di condominio che di lutri. A chi la casa, non è mai la duia quando sei in condominio, allora non la compresi, sì, invece il condominio non ne paghi, ma nulla. E il 21 euro ti rimane in bucciacca. Ma te non pago niente io, non pago niente perché c'è anche il posto. È venuto coso, come si chiama? Studio di impressa. E vabbè, comunque, hanno fatto tutto. Come via Napoli, come si chiama? Porca miseria, ho messo una bella lovara, la sonda, tutto l'impianto di lusso, tutto lovara, autoclave, tutto, tutto, tutto. Ma come va? Già ma là c'ho la banoa, dammi mondezza. Ho fatto già analizzare l'acqua, il laboratorio da noi, giù, è perfetta, non ha nessun residuo batteriologico, nulla, ma è solo per lavarci e per cucinare, poi a bere, io ne ho mai bevuto acqua di, ne riporto una di rubinetto, però per dirti, capito? Ti sono presente che ero a Coscio, avevo fatto fare un preventivo dalla, come si chiama? In Oramara, non mi stessi i barauli oggi, sto avendo i gruppi elettrogeni lì a Canica, e vabbè, comunque, mi hanno fatto fare un preventivo per un gruppo elettrogeno non grande, ero valutando, si fa una gazzetta inventata con tutto, perché l'elettricista mi ha detto guarda faccio un impianto da favola, tu manco ci vai ad accendere il gruppo, accendi direttamente da qua, da dentro casa, con tutta la strumentazione ti faccio un quadretto, vedi tutto, tutto, riuscivo a mettere gasolio e boh. E poi mia moglie ha detto ma veramente a vivere come gli zingari, se no manco lui si avevo pagato. Candellari, buonasera, scusate, ciao Flavio, continuate, scusate. Ciao Marico, scusate, è un piacere sentirti, Scandellari, bravo, oggi non metteci nei barauli. Esatto, Scandellari fa tutto, che fai, no, dalla casella ti metti il gruppo automatico, scatta con l'attore automatico se c'è il gruppo. Nel caso non lo fai così, però usi solo il gruppo e boom. Ok, continuate, faccio qualcosa qui che mi sto ascoltando. Ciao, ciao, Claudio, ciao. Ciao Marì, quando vuoi siamo qua, piacere ascoltarti, buonasera, capito Natalia, ma dittimi, ma qua non si può, non si subito, hai mandato una ditta per il giardinaggio, perché qua è grande, era uno, un uomo vecchio, ne bugava bene, tagliava un pezzo d'erba oggi, un pezzo d'erba domani, tutto binghiroso, allora hanno assunto la ditta proprio di giardinaggio specializzata, a giubicchio, rasendo, tagliendo, e vende, ha detto, come è passato a chiedere i soldi del condominio? Ehi, è stato un aumento di cosa? Di 20 euro. Cazzo siamo in 100, 20 euro a testa, lo sai quanto c'ho? C'ho 2000 euro c'ho. Ma chi ti arrivi a pagare? Ho capito. Così, senza assemblea, senza niente, nulla. Adesso devono cimare gli alberi. Poi non so cosa c'è da fare il cancello. Poi qualcuno ha detto, perché insomma sono visto tutto pulito, bello rasato, se si può fare il prato in Grecia, ma mettetele in culo, che non me ne fotte più nulla. Oh! Il prato inglese, così giocate a golf, me. Fuggitini da chi? Ma Giudito, tu fai fare il prato inglese e io prima di andarmene te lo cago tutto, perché a Filippo lo mollo nel prato inglese. Eia, e quando cominciano a fare rifacimenti, abbellimenti, mamma mia, poi ci mettono sul prato inglese il parco giochi per i bambini, capito? Tutto, e poi pagando. Ah no, e subito mi ero fuggito. Allora manco, un dia andando non ha condominio da pagare, non ha compreso. Ma rubotto, e la piglia anch'io direva. Ma buffonelli, direi. Mi sento in tiro in musciacca, la meraviglia butti, là. Sto scherzando, Natalia. Sono 1200, 1400, quanto sono? Quelli all'anno mi rimangono in tasca. Non si, ma poi il problema è che fra un po' c'è a fare le facciate. Olga, la gente guarda la scala aerea. Non le vasi ne no di ponteggi, che costa troppo. La scala aerea, 600 euro da lì, no? A razza. Ui, infatti stiamo cercando di fare più fretta possibile. Siccome sto aspettando che questa è in vendita, ho molti agganci, però ma due gli hanno bocciato il mutuo, l'altro le manca una bella parte e quindi sono ancora qua, ma alla fine poi non me ne frega più niente, se riesce a andare a Mini prima dell'estate io lo volo dalla vacone, mi volo dalla vacone, intanto se sono secondo piano non mi faccio niente. È molto, è una zona molto bella, molto tranquilla, molto, c'hai tutto quello che ti serve, c'ho due posti auto, c'ho tutto, la verità, no, non ho problemi di niente, non ho avuto problemi di nessuno, sul tetto faccio quello che mi piace, però troppe spese, alla fine ha detto, boh, ma ho giugato tutto, tutto quello che c'era, giocato e via, pazienza, sono andato avanti con i lavori, ma diciamo che l'80% volendo posso anche già andarci, però a luglio non ci vorrà andare ancora, allora ci temo, stiamo qua. Sì, finché è possibile, e da qui mi viene subito bene. I 120 euro me li avrei messi in tasca, non è capito. Sto patesimesi, sono 1200, 1600 euro si viene all'anno. Già non è nulla, 1600 euro all'anno, ma senti così volte 1600 euro a fine anno. Ah, voglio andarmi a fare un giro per farmi un weekend Natale Capodanno fuori. E invece vi da Eddo. No, ma poi non c'è. No. Ui. Andare. Infatti ti ripeto, sto già mi liberando su. Fermo, ti dico, c'è amici link di la mano. Link di rigorri. Cosa c'è? Cioè, sono un ridotto, 7 e mezzo, cioè, cosa c'è? Se non ci talo e mezza, vai, se no ti do la banana anche a te come Luca. Filippo, oi, quando ti trovo a schiaffi anche si l'abbroci di culo. Mi Natalino, che c'è? Che c'è? No? Che c'è? Abbai al tuo Natalino, abbai. E così è, comunque, un po' di pazienza, calma, tranquillità, non ce n'è problema. Luca, ci sei? No, non c'è, non risponde. Cazzo, mi hanno dato un trasportino, sono andato, cazzo, ma è troppo grande per il cane mio, cazzo. È come quello di Gianni, però è troppo umano, di minore non la riani così. No, io ho la 600, nell'Alfa no, non lo faccio salire perché c'ha l'interno in pelle. C'ho la 600, io le metto nel suolo, c'ho nel cofano. Quando lo butti in giro, io brinca, se ne va dietro, si siede, o si corica. Poi ogni tanto la porto dal mio coso a farla aspirare, a togliere, a volte sono i piedi, e boh. No, il trasportino è troppo ingombrante, Natalino. No, è una cosa, poi dirò poco, resistente, no, non fa. Ci vuole la station wagon per il trasportino. Sì, infatti. Oh, yeah. Cammino a fattura. Solo che il camino, cazzo, boh, quando lo porti in macchina, non sta fermo e vomita. Boh, dimmi tu. Vuol dire che non era abituato. Filippo c'ha tipo di andare a un goffa, no? Abbasci tutto, manco lo vedo. Solo che non lo lascio lì, vero o no? Allora, lì il Natalino, può comare. Allora lo porto e lo metto nella quella macchina che l'ho presa per battaglia, io invece la Vini, è più nuova dell'Alfa, fatta tutta la rivendicata, metterla a posto, fa tutti i nuovi, tutto mi ha fatto Roberto. C'è rimasta qualche fesseria da fare, ma è... già va bene così, visto l'avevo presa giusto per muovermi, per lavoro, è una carregata di roba, e questa ci butto 4 sacchi di cemento, devo lasciare 2 sedili, vamos, io parti. Ah no, e te ne dirà gonfi, a chi sei minore è troppo d'ora. Sì, poi funziona bene, era di una ragazza che aveva avuto un incidente, di fianco era tutta maccata, capito? Però c'è un bel motorino, poi la SX con l'aria condizionata c'ha tutto. Ho pagato una fesseria, 300 euro, ci sono speso, non mi ricordo quanto, per metterla a posto, ma comunque adesso è presentabile, dai, già va bene. Oi. E beh Marco, maniera della in salata. Sattato bisogna che prendami. Sì, con le uova sode è molto buona l'insalata. Con quello che ha la fa mamma, capito? Oh, patate, pomodori. È buona comunque. Dopo mangio frutta. Cosa abbiamo oggi? Kiwi, come si chiama? Con lo zucchero. Buono. Guarda, a me sarebbe piaciuto avere un camper, mamma mia. Avrei fatto la vita dello zingaro nell'estate, lo sai. Tutti e 3 mesi, anche oltre, ogni giorno in una spiaggia nuova sarei stato. Fare tutto, circonavigare, proprio fare tutta la Sardegna. Tutta. Sarebbe stato bello, vabbè. Anche il gatto nostro, se lo porti, non è abituato. Anche se lo porti al veterinario, quando a 100 metri dal veterinario caga, proprio, nel trasportino, e dentro la macchina, che è un posto molto chiuso, c'è un odore terrificante, è una cosa proprio da vomitare. Ci fermiamo subito, arieggiamo, poi mamma c'è tutta la roba per pulire nel trasportino. È sempre così il gatto, no? Non va portato, dai. Il mio gatto gusta, il fattore tedesco invece davanti a me si sedeva e non si moriva assolutamente. Il tuo gatto vomita gli ciugani, io non mi gioco. E questo trasportino è enorme, gatto, come quello di Gianni, hai visto l'aereo, ma... Non lo so, forse sì. E almeno il cane sta più comodo, può scorazzare dentro il trasportino. No, invece io lo volevo piccolo, proprio per non scorazzare, che se no vomita. C'è una cosa che non si crede, il cane. Adesso gli metterò quelle traversine che ce le ho per il cane dentro il trasportino. Se no non lo puoi portare in giro, cane. Ma se l'hai comprato, fatelo cambiare con uno più piccolo. Di quel tipo non ne aveva più piccoli. È come quello di Gianni, è piatto e si apre da davanti, proprio dal... È diverso da quelli che conosci tu. Addirittura questo che ho io si alza, la grassa, è più bello di quello di Gianni. Ma è enorme, Gianni. Io pensavo in Italia e in macchina, invece giusto, ci sta. Però non puoi caricare altro perché casticina. Il cofano ce l'ho, addirittura manco il pannello posso mettere perché è alto pure. Il pannello inteso come cappelliera? Il pannello di dietro della macchina, quello per non vedersi dentro il cofano, non vuoi punire perché è troppo alto. Mica Concetta non ti mette nel trasportino, mi ti porta, dentro ci sarai tu. E il gatto purtroppo è così invece, ha sempre il corpo in canna, capito? Lo porti, dopo 8 minuti niente, la fa sempre. Una volta c'era, andando a Platamona, ma da svenire ce n'era dalla puzza. Una cosa terrificante, guarda. Sai, in un ambiente chiuso come la macchina è concentrato l'odore. Ah, oh, ma poi la gatta è puzzinosa, Maratucci. Sia che puzzio che passa le feci è puzzinosa, non mabbaria. Eh sì, purtroppo non è stata abituata da piccola, quindi... No, non fa a portare in giro, dai. Va bene. Adesso attendiamo notizie superiori quando mi chiamano da Ozieri per fare questi controlli all'occhio. E così mi dicono se devo fare terapia al laser, se devo pigliare medicine. Ma cosa hai avuto? Io avevo avuto l'emorragia oculare e mi avevano operato. Tu cosa c'hai? Allora, è da vedere l'occhio destro, no? La parte destra dell'occhio destro è oscurata, non vedo le immagini. E il sinistro invece è come un po' offuscato, ha trovato un po' la retina leggermente un po' bianca, oppure ipotizza una leggera sofferenza del nervo ottico. Insomma, bisogna sapere se è un problema del nervo ottico, c'è una maculopatia o come si chiama, o retinopatia si chiama, c'è un problema vascolare, quindi mi fanno la oculografia, praticamente sono delle foto del fondo dell'occhio, devo fare, aspetta, come si chiama, risonanza magnetica, un esame anche neurologico per capire se è una cosa neurologica, e poi due cose all'occhio, un macchinario guarda nella pupilla con la luce e fa le foto. Ah no, una è col contrasto, ti mettono una specie di fluorescina o come si chiama, ti fa vedere in rilievo ti fa vedere i vasi sanguigni dell'occhio praticamente, li mette in rilievo, è una specie di contrasto, dai. No, ho capito. No, io vabbè, ho avuto emorragia oculare, proprio per causa della... lo sforzo proprio della vista, sforzando la vista, eccetera, eccetera. Adesso sto bene, però ogni tanto mi lacrima, ho sempre rotto le scatole, a me si era fatto tutto rosso in sangue, praticamente si era rotto un capillare, mi avevano tutto fatto un intervento particolare, tutto pulito, rifatto, insomma. Però non è che è all'80% sempre quello che ci vedo, molto meno rispetto all'altro, eppure non sono mio, sono ipermetrope, capito? Ed è così, e vabbè, pazienza, a volte anche queste cose, sto portando gli occhiali, non sempre, l'ultimo mi ha detto, il curista mi ha detto di portarli a sbalzi, 2-3 ore al giorno, capito? E così sto facendo, però quando stai facendo qualcosa, a leggere mi rimetto, guardare la televisione, però quando stai facendo qualcosa non riesco più manco a saldare un filo, poi a saperti. Va bene, dai Natalia, riprendi tu, io sono le 8:15, mi preparo a portare a Marco Filippo a fare un giretto e poi ci andiamo a cenare, le chiacchiere ci abbiamo fatte. Adesso la sera già entro anch'io, tanto la maggior parte della settimana sono sempre a casa di pomeriggio, di mattina no, ma di pomeriggio già sono a casa, perché non ci avevo più materiale, gli elettricisti stanno finendo di collegare quei paletti di illuminazione del vialetto e basta, e poi ci blocchiamo di nuovo, se no aspettiamo rinforzi, se no Lugon tu gara, bisogna fare la zattorra. Va bene, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, anche a quelli che sono in ascolto dalle alture di Carbonazzi, Claudio Sparviero, Passecoletti. Vai, tata lì. Sono andato a prendere mia moglie. Allora, grazie per le quattro chiacchiere e ci sentiamo domani all'inizio. Ehi, era Natalia, già ci sentiamo domani, dai. Tanto quando rientro dopo magari non c'è nessuno. Ma se lasciate acceso, se non è pronta la cena, già riprendo anche dopo. Ciao Marcolino Condo, ci sentiamo dopo al limite, dai. Ci sono domani, ciao a tutti. Ehi, non ho avuto voglia di seguire il programma di Bonoli, sei molto rumoroso, molto schiamazzoso, capito? Sì, per me poi bisogna vedere cosa c'è, o c'è una terapia a base di farmaci oppure il laser, bisogna vedere come, no, perché hanno detto di non trascurarlo assolutamente, perché sennò se è una cosa degenerativa poi divento cieco a un occhio o peggio a due, e quindi è meglio farlo. Poi vabbè, per questo coso andrò dal dermatologo, così mi dice un po' il sito del pus, un po', sono andato al medico, ha spremuto un po' il sito un po' di pus, quindi sì, sarà una cosa infiammatoria, va tolto perché non si sa fare niente, va tolto, una piccola incisione, tutto assieme poi arriva a me, capito, l'occhio, riesco a guidare, non è che non riesca a guidare, ci mancherebbe. Però l'occhio sinistro, diciamo, io credevo fosse solo questione di lenti, invece soprattutto con la luce o guardando lo smartphone tende un po' a offuscarsi, soffre un po', è un po' sofferente l'occhio, dai. Quindi se c'è da intervenire si interviene, in tempo soprattutto. Ah, va bene, Meda, là, io devo andare a farmi un toast. Un toast? Eia, anche mamma ha fatto qualche toast con quella quella specie di pressa, come si chiama? Non il tosta pane, quella che si apre e si chiude, no, ma so che ci ha messo quelle porcherie, ci ha messo ketchup, no, il tosta deve essere leggero, non pesante. Formaggio, prosciutto, boh, basta, no, coso, ketchup, non so cosa tutto ci ha messo. E alla fine diventava una bomba ecologica, il tosta va fatto leggero, dai. Bene, andata lì, dai, e chiudiamo, dai. Poi non so se rientrerà Claudio, io ti saluto già da adesso. Mangio la frutta e poi il caffè ci pigliamo qua. Dai. Ciao a tutti gli ascoltoni, ci sentiamo alla prossima fois. Ciao, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao, le frutte, grazie per la chiacchierata, buon pomeriggio. Adesso vado e mi faccio un bel tosti col tosta pane. Ehi, a quello ci manca, vedi? Ce l'avevamo, ma poi si è rovinato il filamento. Il tostapane io lo preferisco, perché quell'altra cosa, la tostiera, come la vuoi, schiaccia troppo il pancarré, capito? No, guarda, questo... Ciao a tutti, sentiamolo. Ciao Claudio, ciao. Guarda, dal risparmio casa l'abbiamo preso, si può anche pulire perché c'è il carrello per pulirlo, della telefine. Ah, il carrellino sotto per... No, Dale non c'era, lo dovevi capovolgere e cercare di faccendere le briciole eventuali. Eia. Va bene, Dantalini, buon toast, buon tutto, saluta la 50, ok? Ciao a tutti, ciao ciao. Ok, anche a te, ciao ma, ricambiati dalla 50, ciao ma.